6. Ascolta e controlla. 1. In quell'occasione risolsi il problema da sola. Non chiesi aiuto a nessuno. 2. Dante Alighieri nacque a Firenze, dove visse la maggior parte della sua vita, anche se morì esule a Ravenna. 3. La spiegazione del professore non fu molto chiara. E allora gli studenti fecero un sacco di domande. 4. Le sue parole non mi piacquero per niente, ma io non le risposi, la lasciai perdere. 5. L'esibizione fu bellissima. Tutti si esibirono al meglio. Il maestro diresse l'orchestra in maniera esemplare. 6. Loro rimasero a lavorare, perché il capo ufficio non concesse il permesso di assentarsi per partecipare alla manifestazione.